Again, prove nuove, se le cose non ti vanno meglio bene la prima volta, allora perché non provate un'altra volta? Questi sono Aaliyah with Try Again. La partita Italia 2, Romania 0. Non ci voglio parlare molto perché se state ascoltando la radio magari non siete grandi tifose, perché il televisore è il posto per i tifosi stasera. Comunque mi ha detto Fiore, magari ho portato io fortuna a questa squadra stasera, perché da quando sono arrivato in radio hanno segnato due volte e siamo soltanto al 24esimo minuto. E poi vedo che Del Piero non sta giocando e Fiore il suo suggerimento è che praticamente sembra che il nostro Alex, anzi non il nostro per carità, è in punizione per quello cattiviere che ha fatto contro il Napoli domenica scorsa. Questo mi piace, anzi non era domenica, era sabato, era l'anticipato, e pure la settimana prossima anticipano pure contro il grande Inter, che c'ha l'irlandese Robbie Keane che ci gioca. Quindi auguri bene per l'Inter, però adesso sono diventato proprio un tifoso dai Napoli, quindi anche se c'è un compaesano mio con l'Inter dico sempre Forza Napoli. Allora Carmen Queasy, Maxim & Skin on Radio to the Moving Station on Saturday evening. E noi siamo sempre alla ricerca del piacere e questo sicuramente ce l'ha dato, eppure diamo un sacco di piacere a Salvatore. Ciao Salvatore, che è scritto da Roccampina, per chi ci ascolta 24 ore su 24. Ma quando dormi tu Salvatore? Dice che siamo quasi favolosi. Grazie, siamo proprio favolosi direi. Comunque grazie del tuo bacio che mandi alla tua metà. Dobbiamo ringraziare, immagino che l'altra metà che ringrazio, la GSM Box 0348 24 38 888. Dovunque che siete questo sabato sera, bombardateci un po' di questi messaggi, in modo che io e Fiore non ci sentiamo solo se Lucio, perché sabato sera è da passare con gli amici, e i nostri amici siete voi, gli ascoltatori di Radio Tour. Perciò per voi adesso, che pensa chi pensa? Lei pensa con Gianluca Grignani speciale. But do what you like, fai quello che volete, basta che siete all'ascolto di Radio Tour. Come Dani che ci ha scritto e detto ciao, volevo salutare tutti voi di Radio Tour. Vabbè, ci siamo. E poi aggiunge, volevo dire che amo l'Irlanda e tutti gli irlandesi, siete stupendi. Wow, grazie Dani, ho trascorso una bella estate a Dublin. E baci a noi, a voi, oppure a noi, a te, oppure Dani, thank you very much. Allora, a proposito dell'irlandese, dell'Irlanda e del calcio, lo so che ho promesso di non parlarlo troppo, però pure loro stanno a giocare stasera contro il Portogallo, partita già in corso. Quindi io adesso in radio non c'ho la possibilità di controllarmi un po' il risultato eccetera, quindi vi prego, se voi avete, non so, l'internet sotto mano o il stream o il telegiornale o qualcosa, potete andare a controllare e dirmi un po' come sta andando Portogallo-Irlanda che si gioca stasera. Sarei molto grato a voi. 0348 24 38 888. Just For You arriva tra poco, chiamateci adesso. Neck sul treno fa il ciu ciu ciu, tuk tuk tuk. Neck, come stai? Cosa fai? Mi sembra proprio giusto che facciamo sentire Neck sul treno. E se uno è sul treno, ovviamente è in movimento, no? Muovere da uno punto all'altro. Speriamo però che non sia uno in sciopero, per quello sarebbe un altro discorso, no? Il movimento non sarebbe, però al momento sembra a livello di treno siamo tutti chiari, tutto in spostamento, tutto via libro. O binario libro, bisogna dire. Morena, grazie del tuo messaggio, mi ha fatto veramente ridere. Thank you very much. E adesso per Manuela facciamo sentire Bella Britney Spears with Lucky. Si è fatto il trattamento del remix dai italiani, copesani loro, è l'Eiffel 65. Quindi Piero Pelù remixato come se, cioè l'abbiamo sentito, però mettiamo un'altra Pelù Periero. Ecco, sto provando a rimessare il nome. Vabbè, GSM Box 0348 24 38 888, ci dovete scrivere. Ed un'altra cosa da fare adesso, vi segnaliamo Radio Tour from Moving Station, la radio dei grandi eventi. Radio Tour, la radio dei grandi eventi, vi segnala nuove etnie partenopee, mostre, musica, danze e spettacoli di artisti di strada con Tony Esposito, i Zezzi ed il cabaret dei Tiandria. Nuove etnie partenopee 7 oggi ed 8 ottobre domani in via Rotondelle a Camaldoli a Napoli. Ingresso gratuito per tutti. Radio Tour c'è. Radio Tour. Voce di questo. La canzone si chiama Crepuscolaria, che vuol dire non lo so. Il gruppo si chiama 8 Om. Mi piace pronunciare 8 om. Tanti messaggi sul GSM Box, devo salutare Jampix Adelaide che ci ha scritto, grazie, pure Giorgio, Joe, anzi do Benevento, immagino che sia Giorgio, non lo so, ha detto che siamo la radio più mitico che c'è, grazie tantissimo, e pure Annalisa e Fabiola che ci amano e ci vogliono conoscere, che ne pensi Fiora? Però ti posso dire qualcosa, devi cambiare quelle scarpe prima che arriva qualcuno. Fiore c'ha le scarpe dalla pioggia oggi, che magari sono belle eccetera, però è shock dopo tutte queste vestite estive eccetera che ci sta. Adesso una ragazza che ha cantato per la prima volta in italiano la settimana scorsa a Roma con Tiramacino, questo è Lisa. Lisa sta cantando in inglese, ma lei, come sappiamo tutti quanti, è italiana e dice happiness is home, cioè la felicità è la casa. E ragazzi, vi posso dire che sono d'accordo, la cosa è che lo so che è sabato sera, lo so che è bello uscire di sabato sera, fare tante cose, ma io personalmente, se non lavoro in radio, rimango a casa di sabato sera. Perché? Perché c'è un casino di traffico a Napoli di sabato sera, e se voi siete dentro quel traffico, buona ascolto with Radio Tour, The Moving Station. Le 22. In Amarina Ray, ti stiamo ascoltando, bello! Allora, questo ha messo proprio il titolo di questo new hit per imbrogliarmi, no, non imbrogliarmi, imbranigliarmi, come si dice, farmi sbagliare, perché sono 7 sillabi. Vediamo se ce la faccio a dire il titolo di questo new hit. Inaspettatamente. Più veloce, inaspettatamente. Wow, grossa, grande il nostro new hit. Io sono Fergal Governor, con me alla tecnica abbiamo Fiore, che c'ha un sorriso che spacca i vetri, visto che non c'è il sole, anzi oggi c'era un bel sole, anche se adesso fa un po' freschettino, però sempre 3-0. No, ho promesso di non parlare del calcio, però non mi avete ancora fatto sapere dall'Irlanda come stiamo andando. Oh, senza fiato, è proprio i messaggi che vi stanno arrivando sul GSM Box. Mi lasciano un po' senza fiato a dire la verità. Mary o Marena, grazie di tutto questo messaggi. Uno di quelli dice, perché censuri i miei messaggi? Va bene, allora leviamo il censuro e leggo un paio, faccio un bel selezione. Mi ha scritto prima, nel primo ora, a chiedere se ero bello come mia voce. Allora, poi volevo sapere dove stavo domani, in modo che potevo venire a riscaldarmi. Mi si sentivo un po' di freddo, thank you very much. E poi che altro ha scritto? Vuole lasciare tutti e tutti per venire in radio. Che sono il suo angelo, che ti ho mancato e adesso sono tornato. È come un alito di vento, la carezza alla mia pelle, questa mia voce, sono unico al mondo. Well, thank you very much Mary. Allora, il consiglio che ti darei prima di dire tutte queste cose è andare sull'internet a vedere un po' il nostro sito www.radiotour.it, che ci sono i foto di tutti i speaker, io ci sono pure, magari la foto è un po' vecchio, cioè 6 mesi fa, e le persone cambiano pure, però quello sono io alla fine, sotto la mia pagina Fergal Kavanagh. Yes, you're listening to Radio Tour, The Moving Station. Here we've got DJ Luck with Master Blaster, Due Mila with MC Meet insieme on Radio Tour. Tony Braxton, un messaggio al GSM Box, odio lavorare il sabato sera, cosa potrei fare oltre la cubista? Help me. Poi siamo tutti a lavorare di sabato sera, però il piacere è stare insieme, io sono insieme a voi gli ascoltatori, e tu che fai la cubista sei insieme a tutti quelli che ballano, sei tu che conduci tutti lì. E poi è arrivato un bel messaggio qua, ascolta un po' questo: visto che il sabato il mio ragazzo non mi porta a ballare, ho messo mini estivali e ballo in vostra compagnia. Fergal, mi concedi questo ballo? Allora, mini estivali, allora mica sarebbe possibile portare pure il frusto, ma facciamo una cosa completa, no? Comunque buon ballo per te, facciamo il muovere un po' tutto con The Sound of Bon Jovi on Radio Tour, The Moving Station. Vabbè, facciamo un po' l'inverno di amore. E poi mi è arrivato un altro messaggio a proposito di questo frusto. Voglio dire, oh, la frusta non è una cosa che piace, a me fa male, mica sono Indiana Jones io. Poi Mary ha scritto, ha detto, ti voglio sempre incontrare, tu mi vuoi incontrare sempre, che l'ho promesso un paio di settimane fa. Sì, Mary, facciamo un appuntamento più di là, diciamo, quando magari sono in onda in orario di ufficio e possiamo raccoglierti in radio. Poi Dome ci ha scritto, ha detto, è ad una festa dove ci sono solo solo ragazzini. Oh, mi dispiace. Hai chiesto un brano. Non puoi chiedere un brano e trametti il GSM Box. Però hai visto, ti abbiamo contato lo stesso perché è andato in programmazione. A proposito di questo, il promo Just For You dobbiamo fare adesso. Quindi sapete, il numero di telefono è 081 790 1411. Quello a rispondere il telefono sarà Fiore, che raccolgerò tutta la vostra richiesta. Questo qua è Mojo con Lady on Hear Me Tonight on Radio Tour. A bel canzone da ballare di sabato sera. Siamo a sabato sera, no? Da qua su una rivista che c'è qua per le scarpe K, che si mette sul piedi, ma è una cosa di pazzo, no? Praticamente Gap è l'angop, no? Là sopra, mentre i piedi si mettono in piedi, perché tra poco saremo tutti quanti a portare i cappelli che il nome piedi, va? E adesso per Rebecca facciamo sentire la bella canzone di Sonic, It Feels So Good. Per sabato sera, Giampulli on Radio Tour, The Moving Station. Allora, Moreno sta per uscire, volevo regolare, che le regalasse un momento di condividere con lei. Allora, buona uscita, Moreno. Ehi, sei tu, che sto dicendo? Sei pure andato sull'internet a vedere mia foto, mi ha detto. Oh, perché non mi hai controllato il risultato dell'Irlanda-Portogallo? Ah, mi faresti questo piacere, fammi sapere, dai. E poi, Mary, pure, grazie del tuo email. Prometto che ti scriverò in questi giorni, però aspettami un po', perché questo fine settimana è veramente impegnativo, però è bello così perché noi siamo Radio Tour, The Moving Station, e abbiamo tanto da fare. Infatti martedì abbiamo pure da fare. Radio Tour in Tour. Radio Tour in Tour. In tour con Fabio Brescia, ogni martedì sera al Dry Dock di Via Cintea a Napoli. Black music, two-step, le voci, i suoni e l'atmosfera per una notte assolutamente di tendenza. Art director Antonio Gerardi. Radio Tour in Tour. Tour. Yeah. 081 790 1411. Irlanda, e stasera è andato benissimo per l'Italia. Totti ha fatto il terzo gol, 3-0 contro la Romania, quindi è una ben inizio, anzi non inizio, un ben continuazione della qualificazione di Corea. E poi Rebbi ci ha scritto, volevo sapere se è possibile finire una storia di 2 anni quando due persone si amano ancora tremendamente. Poi la risposta la do io, dice Rebbi, la risposta è sì, e dice che Lello gli manca moltissimo. Ok, non lo so, 2 anni sono tanti quando persone sono ancora innamorate, è difficile lasciarsi, sì, però a volte è meglio, magari se le cose non stanno andando come volete, magari se vedete altre vie di uscita, non lo so, io non sono persone adattatissimo di consigliarvi. Comunque, se avete qualche consiglio, GSM Box 0348 24 38 888. Ho visto qualche settimana fa un concerto al Festival dell'Unità dove c'erano anche Radio Tour e Subsonica, e hanno fatto questo pezzo con grande emozione on Radio Tour, The Moving Station. Ho richiesto a questo polemica se bisogna lasciarsi o no dopo 2 anni, eccetera. Però qua sto da quasi 1 anno con un ragazzo meraviglioso. Litighiamo spesso, ma c'è qualcosa di enorme tra di noi. Oh, sembra una canzone. Che mai ci fa lasciare? Oh, buono. Credo che lasciarsi vuol dire non amare. Grave questa cosa. Io non faccio nessun commento. Fate voi. Però io adesso, infatti, guardo un po' l'orologio. Ladies and gentlemen, the clock. Le 23. Radio Tour. Un'ora intera insieme questo sabato sera. Io sono Fergal Cavanagh, con me c'è Fiore, e facciamo ballare, facciamo divertire, e sembra che facciamo fare altre cose pure. Le posso leggere? Vabbè, dopo le 9 di sera Sara ci ha scritto e ha detto: sto facendo sesso, mettete qualcosa più lento. Comunque, Sara, ti dico, il ritmo è una cosa che fa muovere, no? E poi il sesso, dicono anche che se fai una bella, come posso dire, una bella session, che praticamente vale come correre 5 km. E perciò adesso, tra poco, saliamo nel macchina del tempo e andiamo a correre. Curiamo in cima alla collina. Running up that hill, macchina del tempo, vediamo Kate Bush. italiano, la vamos a ballar, lo spagnolo non gli andavano bene. Vabbè, alla fine sono italiani, possono fare così. In new song for them, new song Paola and Chiara, very nice. Adesso facciamo sentire un pezzo del ex leader dei Verve, che leggo proprio nel giornale oggi. Infatti sta suonando a Roma stasera pure, wow, bel concerto. Che lui vuole fare un trio con suo figlio e moglie, ma le cose è che suo figlio c'ha tipo 6 mesi al momento, quindi magari dobbiamo aspettare che esce questa cosa. La canzone si chiama Come On People, però a dire la verità, a me, come inizio, sembra molto come quello degli Isley Brothers, sai, che fa I'll be there, sai, inizia con When you're down and you're all confused. Sentiamo un po' se pure voi sentite questo. Richard Ashcroft, Come On People, Come On Man, I'll be there, maybe, forse. Really matter on Radio Tour, the moving station. Messaggi al GSM Box 0348 24 38 888. Ci ha scritto Tano di Nola e ha detto saluti e forza Napoli. Questo è condividiamo. E poi a proposito delle storie di amore che è finito dopo 2 anni, dice a me ne è finito uno di 7. Figuriamoci se ci può scandalizzare per molto meno. È vero, 7 anni sono tantissimo, però dipende pure le emozioni divise in quei 2 anni. Non voglio scartare pure la lunghezza del rapporto. E poi pure Simona e Simona ci hanno scritto, le due Simone volevano pure dire a Francesco e Paolo che sono tutta la sua vita, la loro vita dovrei dire, un bacione fortissimo. Pure Natasha ci ha scritto e Natasha ha detto ciao, voglio dedicare qualcosa di grande a voi su Radio Tour. Grazie, non ti possiamo accontentare adesso, però accontentiamo con la voce irlandese di Ronan Keating and Life is a Roller Coaster. Lo è proprio, Voglio e te. Allora ci ha scritto un ragazzo qua che una ragazza che non ha firmato, ha detto ciao, ho 15 anni e un ragazzo di 23 vuole uscire con me. A me piace, ma che fare? Allora, lui c'ha 23, tu c'hai 15, c'è un po' di differenza, però l'età a volte non importa. Comunque è un bel differenza, visto che magari tu sei ancora a scuola, non si fa questa scuola, questo è napoletano. Tu sei ancora a scuola e lui magari sta lavorando all'università o chissà che sta facendo. C'è una differenza di cultura, di vita pure, però alla fine la decisione è tua magari. Quindi in bocca al lupo, facci sapere come va, però di sicuro spero che fai la cosa giusta. E poi pure Nando, Alex e Luca, che si fermano i 3 figoni di tuo renunziato, ci è scritto e volevano che do questi numero, cioè il loro numero di cellulare, a 3 ragazze di Castellammare, però io non mi va di dare un numero di telefono di un ascoltatore in onda, cioè scusatemi ragazzi, però vi ricordo lunedì sera inizia Harry ti presenta Sally, un'altra volta che dura dalle 8 a mezzanotte, quindi ci sarà l'opportunità per voi lì, no? Dal lunedì su Radio Through the Moving Station, e quindi poi non dite I'm out of love. Now baby, Thousand, senz'altro è un grande successo, visto che ha iniziato la sua carriera 30 anni fa, ma sta avendo il successo più grande adesso nell'anno 2000, sto parlando di Santana, infatti voi le state ascoltando adesso. Questo è Africa Bamba. Ciao Radio Tour, sono molto triste perché vado domani sera a Roma, dove c'è l'università che mi aspetta. Ma perché essere triste? Roma è una bella città, no? Si sta bene a Roma e c'è pure, che c'è, la Colosseo, vabbè, si può fare il turista e tutto lì pure. Ah, mi mancherete tanto. Oh Pat, grazie tantissimo, però che consigli ti posso dare? O il Pay TV o la Parabola, qualunque stazione di Pay TV, e ci becchi dappertutto nel mondo, non soltanto a Roma, non soltanto a Napoli, non soltanto, cioè, a Dublino, a Los Angeles, Santana dove viene, è messicano se sbaglio, oppure a Mexico City si può ascoltare Radio Tour on Satellite Dish with Parabola. Vedi, noi siamo dappertutto perché siamo The Moving Station. Ed è con molto piacere che conto Alessandro e Francesco, che ci hanno chiamato per gli U2 with Beautiful Day. Ando e cercando il tuo amore, questo è Francesco San Martin with Last Night. E Sabrina non sta solo sognando il suo amore, ha detto proprio per Antonio, voleva sapere cosa abbiamo noi in comune, forse niente o tutto. Un bacio a mio Antonio, questo è Sabrina. E poi Mary ha scritto è arrabbiato perché non sto più leggendo i messaggi, voleva sapere quando sono in onda un'altra volta, domani pomeriggio dalle 14 alle 18, e adesso ho un altro appuntamento. Radio Tour in Tour. Comunque Mary non la stavo leggendo perché la volevo tenere per me. Troppo bello i tuoi messaggi. Allora in tour con Fabio Brescia ogni martedì sera al Dry Dock di Via Cintia a Napoli. Black music, two step, le voci, i suoni e l'atmosfera per una notte assolutamente di tendenza. Art director Antonio Gerardi. Radio tour in tour. Velvet, Hokkaido, Tokyo per i giapponesi. Eppure chissà, parliamo un po' di Corea, Giappone. Non sono insieme, però sono insieme per i mondiali. Grande risultato per l'Italia stasera. Ricordiamo che ha segnato prima Inzaghi, poi Del Vecchio e poi Totti. Un partitone contro il Romania. Ancora non sono riuscito a capire come sono andati l'Irlanda. Vabbè, mo torno, mi metto sull'internet e speriamo che vado a letto stasera con un bel sorriso la vittoria irlandese. Domani vi faccio sapere. E adesso sabato sera si balla, no? With the Love Connection. E voglio ringraziare Mary che mi ha mandato un bellissimo bacio attraverso il GSM Box. Thank you very much, Mary. E poi c'è anche un messaggio sul GSM Box per Lucia. Dice che farò un po' tardi perché devo andare a pigliare un panino, però ti faccio un squillo. Ma che è sto roba? Ma chi? Beh, perché non lo vuoi chiamare? Ma chi sei? Oh, non fermi nemmeno. Vabbè, è l'ora di andare. Ok, voglio ringraziare Fiore che è qua con me dalle 21. Infatti è qua con Rosanna prima e infatti ha fatto un buon lavoro questo sabato sera. Adesso sei libero andare a ballare. E voglio salutare a tutti voi ascoltatori che ci avete accompagnati. E vi do appuntamento personalmente Radio Tour. No, personalmente Radio Tour. Cioè Radio Tour continuerà la sua trasmissione tutta la notte e domattina ci saranno i speaker più belli d'Italia. E io personalmente, ecco il personalmente, tornerà dalle 14 alle 18. Segnatevi l'appuntamento su Radio Tour The Moving Station. Buonanotte a tutti, alla prossima. Ladies and gentlemen, the clock. La mezzanotte e un minuto.